domenica scorsa, dodicesima domenica per annum, anno B, è stata la liturgia che abbiamo letto, è stata molto, molto, molto bella, molto suggestiva, per cui per questo desideravo tornare in questa meditazione su quella ricchissima mensa della parola di Dio che ci è stata imbandita. Poi, come sempre, abbiamo anche, o come spesso succede, l'aiuto dell'omelia che ha fatto il Papa, che ha fatto domenica scorsa, era a Torino, e lui ha sempre questa bella abitudine, che è anche una realtà consigliata, di partire molto nella sua omelia, dalla parola di Dio del giorno, della messa, a prescindere dalla circostanza in cui si trova, anche se poi la sa collegare molto bene con la visita a Torino, con la realtà nella quale sta celebrando, no? In effetti lui parte, io non l'avevo notato, no, che nell'orazione colletta di questa domenica si fa riferimento all'amore di Dio come roccia. Dona al tuo popolo, e così comincia la sua omelia, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome. Voi sapete che il nome di Dio nel linguaggio biblico significa Dio stesso, no? Poiché tu non privi mai della tua grazia coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. E lui vede effettivamente nelle letture che si facevano nella messa di domenica questo amore di Dio, questa roccia dell'amore di Dio vista sotto diverse angolature. E da una parte nel Salmo responsoriale venivamo invitati a dire: rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Quindi, come dire, l'amore di Dio per noi è per sempre, è fedele, no? Noi sappiamo che il sogno di tutti, no, è trovare questo amore per sempre nella storia della nostra vita. E la liturgia ci dice, la parola di Dio ci incoraggia a meditare sul fatto che da parte di Dio per noi il suo amore è per sempre, quindi possiamo trovare lì una roccia, possiamo trovare Gesù nel tuo amore, la roccia sicura, no? Il tuo amore, Signore, è per sempre. E mi ha colpito anche molto che in questo Salmo 106 che abbiamo letto, nel Salmo responsoriale, è come già predefinita o prevista, no? È come profetizzata quell'episodio che poi abbiamo letto nel Vangelo: Gesù sulla nave, sulla barca, dei discepoli che si addormenta, la tempesta che arriva improvvisa. Proviamo a rileggerlo. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. È un'immagine di, come dire, di vita serena, di commercio, di lavoro e anche di ammirazione per le opere del Signore nella natura. Commerciavano sulle grandi acque e videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Però questa immagine bella, idilliaca, ovviamente si increspa improvvisamente. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi e si sentivano venir meno nel pericolo. È qualcosa di simile a quello che accade, dicono anche gli esperti che accade sul lago di Tiberiade, dove Gesù con i suoi discepoli spesso stava sulla barca come mezzo di trasporto da una riva all'altra, oppure era il luogo del loro lavoro, il luogo della loro pesca. Però lì si dà, come accade spesso sui laghi, il fatto della tempesta improvvisa. E noi possiamo pensare alla nostra vita e pensare che qualcosa del genere può accadere sia nelle piccole cose che nelle grandi, da un panorama sereno, improvvisamente un temporale, una tempesta, un vento burrascoso e il timore di perire. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Certo, qui potrebbe nascere la domanda: perché il Signore scateni la tempesta, perché fa in modo che accada tutto questo? E non potrebbe essere sempre bonaccia? È una domanda importante. Però di fatto questo è quello che accade nella storia del mondo, nella storia anche della creazione, e questo accade nella storia degli uomini. Forse possiamo trarre l'insegnamento che queste difficoltà, queste improvvise tempeste ci aiutano a ritornare a considerare il Signore come la roccia dell'amore sicuro e anche il porto sicuro. E il Signore manifesta anche in questo la sua potenza e si fa conoscere. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Ringraziano il Signore per il suo amore e per le sue meraviglie a favore degli uomini. Vi ricordate San José Maria che diceva, e fra l'altro oggi ricordiamo il giorno in cui è arrivato in Italia il 23 di giugno del 46, proprio attraverso un viaggio molto pericoloso, no? Con una tempesta terribile nel Mediterraneo, da Barcellona a Genova, nella quale senz'altro tantissimi delle persone che viaggiavano insieme con loro hanno avuto questa stessa esperienza. E anche loro, anche se il giovane Don José Maria aveva fiducia che il Signore li avrebbe portati fino alla meta, al porto sicuro, perché sapeva che era importante arrivare fino a Roma e poter presentare l'opera che il Signore gli aveva suggerito anche al Papa, perché potesse ricevere i primi riconoscimenti opportuni. E lui amava dire, appunto, parlando del mistero della vita umana, che appunto ci sono luci e ombre, però questo rendono più bello il quadro. Dobbiamo avere, io penso, da figli di Dio, questa visione anche sulle nubi oscure, ecco, sulle ombre che si affacciano nella nostra vita, perché con queste siamo in grado di apprezzare di più la luce. Ecco, l'amore fedele, diceva il Papa, la fedeltà è un amore che non delude, che non viene mai meno. Gesù incarna questo amore, ne è il testimone, lui non si stanca mai di volerci bene, di sopportarci, di perdonarci, e così ci accompagna nel cammino della vita, secondo la promessa che fece ai discepoli: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Per amore si è fatto uomo, per amore è morto e risorto, e per amore è sempre al nostro fianco, nei momenti belli e in quelli difficili. Gesù ci ama sempre, sino alla fine, senza limiti e senza misura. E ci ama tutti, al punto che ognuno di noi può dire: ha dato la vita per me. Per me la fedeltà di Gesù non si arrende nemmeno davanti alla nostra infedeltà, ce lo ricorda San Paolo. Se siamo infedeli, lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Gesù rimane fedele anche quando abbiamo sbagliato e ci aspetta per perdonarci. Lui è il volto del Padre misericordioso. Ecco, l'amore è fedele. Noi anche desideriamo l'amore per sempre, l'amore fedele di chi ci ama e anche desideriamo appunto questo amore che passa sopra e che perdona le nostre dimenticanze, le nostre fragilità, anzi le cura, le guarisce. E anche desideriamo quell'esclusività, ha dato la vita per me. È un'esclusività che sappiamo non in Dio, siccome il suo amore è infinito, non esclude, anzi include il fatto che lui dia questo amore totale, assoluto, a tutti, lo vuole dare a tutti, no? Pensate a quello che accade tra poco nella messa, no? Il fatto che noi offriamo noi stessi nella messa, offriamo tutta la nostra vita sull'altare, ma lui stesso ci si dona del tutto a ciascuno di noi, no? E totalmente tutto Cristo viene dentro di noi, poi senz'altro è. Sappiamo che questa totalità del dono di Gesù a ciascuno di noi realizza anche un solo corpo tra di noi, no? È un solo corpo pur essendo molti. E poi il Papa vede un secondo aspetto dell'amore dell'amore di Dio che ricrea tutto, che fa tutto nuovo in quello che leggevamo, nel passo che leggevamo della lettera. Della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. È come se. Ecco, sì, che se Gesù dicesse: io donando la mia vita per te e salvandoti, ecco, adesso in qualche modo tu sei mio, tu sei mia, no? Perché con il battesimo ti ho fatto entrare nella mia vita, nella mia morte e risurrezione, per cui siamo una sola cosa, veramente siamo un solo corpo. E allora puoi vivere per me, è quello che noi desideriamo di fare e lo possiamo fare grazie a lui, grazie alla sua dono di sé, no? Così che non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Io penso, forse San Paolo poteva anche rivolgersi a qualcuno che aveva conosciuto Gesù, anche proprio ascoltandolo, vedendolo, no? Nella sua umanità, cosa che noi a volte avremmo proprio desiderato di poter fare, che però sappiamo bene che non era decisivo perché molti, nonostante questo, non credevano in lui, anzi lo odiavano. Oppure si può riferire a se stesso, lui che non lo ha visto, si pensa che San Paolo non l'abbia incrociato, ecco, nella sua vita terrena di Gesù, ma lo ha conosciuto alla maniera umana, nel senso ho pensato che fosse un così così, un eretico del popolo di Israele, no? E lo ha anche perseguitato, ha perseguitato noi, e quindi e poi ha scoperto, perché Gesù gliel'ha rivelato, che stava cioè che appunto ha scoperto questo mistero del fatto che, mettendo in carcere uomini e donne che seguivano questa via, stava perseguitando lui. Sono Gesù che tu perseguiti, no? Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. C'è stata in lui una grande conversione, e lo conosce in modo, attraverso il mistero divino del suo essere in ciascuno di noi. Quindi, tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Rileggendo queste parole bellissime di San Paolo, misteriose ma così vere, io pensavo che noi tendiamo sempre, o perlomeno abbiamo una maggiore facilità, penso che sia così, a riconoscere anche nella nostra situazione attuale di cristiani appunto battezzati e che hanno incontrato Cristo, che lo frequentano anche quotidianamente nell'Eucaristia e che gli hanno donato la propria vita, che desiderano amarlo e servirlo con tutte le proprie forze, però abbiamo una facilità a notare gli elementi dell'uomo vecchio, no? Dentro di noi, che è utile fare, no? Anche adesso, prima della messa, diremo, sì, ecco, chiederemo perdono dei nostri peccati, e questo è sempre molto salutare, no? E riportare alla potenza dell'amore di Dio ciò che non è amore in noi, no? Perché possa diventare amore. Però è anche vero che potremmo, chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, considerare di più questo fatto che siamo creatura nuova, che il Signore ha fatto di noi una realtà nuova, che Gesù, ecco, le cose vecchie sono passate. Il Papa a Torino, nella sua omelia di domenica, diceva ecco, Gesù, il suo amore che può rinnovarci nel profondo, può ricrearci. E quindi, senz'altro, la salvezza può entrare nel cuore quando noi ci apriamo alla verità, riconosciamo i nostri sbagli, i nostri peccati. Allora facciamo esperienza, quella bella esperienza di colui che è venuto non per i sani, ma per i malati, non per i giusti, ma per i peccatori. Sperimentiamo la sua pazienza, ne ha tanta, la sua tenerezza, la sua volontà di salvare tutti. Che qual è il segno? Il segno è che siamo diventati nuovi, siamo stati trasformati dall'amore di Dio, è il sapersi spogliare delle vesti logore e vecchie, dei rancori e delle inimicizie, per indossare la tunica pulita della mansuetudine, della benevolenza, del servizio agli altri, della pace del cuore proprio dei figli di Dio. Lo spirito del mondo è sempre alla ricerca di novità, ma soltanto la fedeltà di Gesù è capace della vera novità, di farci uomini nuovi, di ricrearci. Allora, io penso che non vada contro l'umiltà, contro il saperci peccatore, il fatto che sappiamo riconoscere l'azione di Dio in noi e sappiamo dire: guarda, e mi hai fatto una creatura nuova, adesso riesco a guardare le persone in un modo diverso, riesco a anche in grande difficoltà a mantenere la pace, la pazienza, ad amare i nemici. Se il Signore ci dà questo dono, glielo chiediamo, no? Ad avere lo sguardo puro di cuore che mi permette di vedere Dio nelle persone. Io penso che faccia parte della gratitudine al Signore, della gratitudine a Dio, il fatto di riconoscere che la sua grazia ci ricrea, la sua grazia ci trasforma. E poi si arriva finalmente al Vangelo, al Vangelo e a quell'episodio, ecco, San Marco, dopo incomincia una parte del suo Vangelo in cui ci sono vari episodi, vari miracoli. E uno è questo, quello che leggevamo domenica, quello della tempesta sedata, no? In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento. Io penso che, ecco, in questo racconto, sappiamo che Marco mette per iscritto quello che predicava Pietro ai Romani, nella chiesa di Roma, e si nota la vivezza del ricordo di quello che è negli occhi e nel cuore di Pietro che raccontano. Gesù dice ai suoi discepoli: passiamo al riva, e congedata la folla lo presero con sé, così com'era nella barca. Gesù guida la vita dei suoi discepoli, no? È lui che dice: facciamo questo, facciamo quest'altro, no? Andiamo di qui, andiamo di là. E questo accade anche nella nostra vita, anche quando non ce ne accorgiamo, però possiamo pensare, Gesù è alle volte anche attraverso la sua madre Maria o attraverso, ecco, lo Spirito Santo che ci ispira, attraverso il suggerimento degli angeli che ci accompagnano sempre, guida la nostra vita, la nostra giornata, ci dice: ecco, fai questo, fai quest'altro. E loro sono docili, sono al suo servizio, effettivamente, non hanno da obiettare. Devono dire alla folla di lasciarlo, perché la folla non, se no, rimane lì. Vi ricordate, giorni e giorni che lo seguono anche senza avere cibo. Doveva essere, per coloro che avevano desiderio di ascoltarlo e di cambiare vita, Gesù doveva essere molto affascinante: tu solo hai parola di vita eterna, no? Per cui devono dire alla folla: dobbiamo andare. Lo presero con sé così com'era. Questo è un inciso, sono due parolette nel greco. Come era, chissà cosa vuol dire, no? Vuol dire che forse non era preparato alla traversata, non è andato a casa a prendere un abito di ricambio. O il mantello per il freddo della sera, non so, così com'era. E noi possiamo pensare che appunto la barca diventa simbolo della Chiesa, anche di tutta la Chiesa, o di una Chiesa particolare, o di una piccola porzione della Chiesa, anche solo delle attività o della casa che noi curiamo, no? E Gesù sta in questa barca. Però che cosa significa? Così com'era, ciascuno di noi deve pensarlo nella propria orazione: come ti devo prendere, Gesù, nella mia vita, così come sei, no? E Gesù prende la decisione di passare dall'altra parte, però poi si addormenta, e Gesù questo ci spiega quello che accade a volte o spesso nella nostra vita. Tu sei nella nostra barca, sei nella nostra casa, sei nel nostro cuore, però a volte ci può sembrare, a volte siamo noi che ci addormentiamo e che ti dimentichiamo, a volte a noi può sembrare, ecco, dove sei, Gesù, che si è scatenato questa tempesta di vento e le onde si rovesciano nella barca. Mi ha colpito domenica, quando leggevo il Vangelo durante la messa, questo questo tanto che ormai era piena, per cui mi sono ricordato che Carl Adam, che scrisse di Gesù negli anni 30 del secolo scorso, Gesù il Cristo, no? Quel famoso libro che tanto bene ha fatto, e lui notava attraverso questo episodio che si vede da questo come la psicologia di Gesù è totalmente armonica, equilibrata, no? E, certo, addirittura c'era acqua nella barca, tanto che ormai era piena, quindi forse Gesù stesso che dormiva era lambito da questa acqua, eppure non si sveglia. Non solo non si sveglia al rumore del vento, allo scuotersi della barca per le onde, ma neanche all'acqua che lo bagna. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Questo particolare del cuscino lo dice solo il Vangelo di Marco, e anche lì si nota, come dire, il ricordo vivissimo di Pietro che racconta, perché nello stupore di vederlo addormentato dicono: guarda un po', ma se ne sta. Certo, aveva quella piccola comodità del cuscino. E fra l'altro è bello vedere come Gesù vive la sua vita umana con tantissima naturalezza. È stanco, dorme, eh? Non è che si è fatto il problema: se mi addormento, chissà i discepoli cosa diranno di me, no? Che non li aiuto a remare, oppure ecco, a issare le vele. E invece vive, ecco, anche la sua stanchezza con molta naturalezza, con molta semplicità. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Ecco, il timore successivo, mentre prima c'era la paura di morire, la paura della tempesta nel lago, che effettivamente può fare molta paura. E invece dopo è il timore davanti alla presenza di Dio, no? E il Papa diceva delle cose molto belle con cui concludiamo la nostra meditazione. I discepoli hanno paura perché si accorgono di non farcela, ma egli apre il loro cuore al coraggio della fede. Di fronte all'uomo che grida "non ce la faccio più", il Signore gli va incontro, offre la roccia del suo amore, a cui ognuno può aggrapparsi sicuro di non cadere. Quante volte noi sentiamo di non farcela più? È molto sincero, il Papa è molto umano, è molto vicino, no? Ma lui è accanto a noi con la mano tesa e il cuore aperto. E possiamo chiederci se oggi siamo saldi su questa roccia che è l'amore di Dio, come viviamo l'amore fedele di Dio verso di noi. E sempre c'è il rischio di dimenticare quell'amore grande che il Signore ci ha mostrato. Anche noi cristiani corriamo il rischio di lasciarci paralizzare dalle paure del futuro e cercare sicurezza in cose che passano o in un modello di società chiusa che tende ad escludere più che a includere. In questa terra sono cresciuti tanti santi e beati che hanno accolto l'amore di Dio e lo hanno diffuso nel mondo, santi, liberi e testardi. Sulle orme di questi testimoni anche noi possiamo vivere la gioia del Vangelo praticando la misericordia. Ecco, allora io penso che queste parole del Papa ci aiutano a rendere vivo questo Vangelo nella nostra vita e a dire: Signore, non avremo paura di dirti salvaci, vedi che abbiamo paura, vedi che non ce la faccio più, però con la certezza che lui è presente anche se sembra dormire e che desidera custodirci, salvarci. Crediamo che il Signore è fedele, e come viviamo la novità di Dio che tutti i giorni ci trasforma, come viviamo l'amore saldo del Signore che ci pone come una barriera sicura contro le onde, che si pone come una barriera sicura contro le onde dell'orgoglio delle false novità. Amore roccioso che ci rende stabili e forti nelle piccole o grandi sofferenze. Chiediamo alla Madonna che ha sperimentato questo amore forte del Signore lungo tutta la sua vita, anche lungo tutte le difficoltà che ha dovuto vivere, misteriose, no? Stava con Gesù eppure c'erano tempeste. Che ci aiuti a guardare sempre questa roccia sicura e a essere saldi, ad abbracciarla e a lasciarci abbracciare dal suo amore forte.